Stavo seguendo stamattina l'osservatorio sull'innovazione digitale e beni culturali organizzato al Politecnico di Milano, che parlava appunto della situazione attuale rispetto al digitale dei vari musei italiani. Da un lato c'è stato questo aumento esponenziale, soprattutto di creare siti o pagine web, quasi l'80% dei musei che prima non ce l'avevano adesso ce l'hanno. E un altro risultato ovviamente è l'aumento della presenza sui social. Io devo dire che per quanto riguarda il Museo della Musica, ovviamente come tutti ci siamo dovuti calare in una realtà ovviamente totalmente diversa rispetto a quella che diciamo tra virgolette normale, abbiamo deciso però di seguire diciamo delle linee abbastanza precise, non solo noi ovviamente ma tutti i musei dell'istituzione, e sentendo questi risultati della ricerca mi faceva piacere vedere di essermi posizionata fra i musei che hanno cercato di privilegiare i contenuti, nel senso che la maggior parte dell'esperienza che è stata riportata in questo convegno è che ovviamente la maggior parte dei musei hanno cercato di trasporre i contenuti diciamo classici online e questo ovviamente ha dato da un certo punto di vista i risultati, ma poi a lungo andare si è rivelato non particolarmente soddisfacente per il pubblico. Quindi noi per esempio non abbiamo fatto viste guidate online perché ritenevamo che non fosse diciamo un'esperienza soddisfacente, abbiamo puntato invece sui workshop online, quindi sull'attività didattica da fare nelle classi anche a distanza eccetera. Abbiamo puntato sulla digitalizzazione dei contenuti con i progetti dei corali e l'ultimo progetto ad esempio che è appena stato presentato sull'archivio del teatro comunale. Poi ovviamente questa occasione di collaborazione con lo studio Veronesi e Namioka ha colto in pieno quella che era il nostro senso, cioè prospettare al mondo quello che c'è dentro il Museo della Musica e fare in modo ovviamente che ognuno potesse fare la propria visita dal divano, come si usa dire adesso, ma che poi l'idea è che si alzi poi da questo divano e venga in museo a vedere dal vivo gli spazi, perché ovviamente io avendo collaborato all'elaborazione del virtual tour ho fatto ovviamente più volte questa esperienza e devo dire che per me che conosco perfettamente il museo comunque ho scoperto magari dei particolari delle cose che si possono vedere da vicino grazie allo zoom eccetera, che magari facendo una visita normale può sfuggire all'occhio, quindi quello è diciamo il valore aggiunto di poter avvicinarsi per esempio all'affresco di una delle sale delle appunto splendidamente affrescate di Palazzo Sanguinetti e poter vedere dei particolari che normalmente i nostri guardiani tra virgolette non concedono ai visitatori, né ci si può avvicinare ai quadri così bene appunto da poter cogliere alcuni particolari. In più c'è tutta la parte di diciamo di ascolto musicale che è nel museo non c'è per scelta voluta ovviamente, perché a noi non piace la musica di sottofondo ma piace la musica che venga ascoltata in un momento preciso e con attenzione, per cui si potrà all'interno del percorso che parte ovviamente dal bookshop quasi appunto a simulare un vero ingresso nel museo e poi si dipana attraverso lo scalone e dentro le sale con la possibilità anche di vedere da vicino la lanterna, la sala egizia e tutta un'altra serie di spazi che magari nella visita sfuggono. Però in più c'è anche la possibilità appunto di ascoltare musiche, quindi le vetrine diciamo si apriranno virtualmente e faranno ascoltare i suoni degli strumenti come potete vedere nel promo. Cantami di questo tempo l'astio e il malcontento di chi è sotto vento e non vuol sentir l'odore di questo motore che ci porta avanti quasi tutti quanti maschi, femmine, cantanti su un tappeto di contanti nel cielo blu. Figlio della mia famiglia sei la meraviglia, già matura ancora pura come la verdura di papà. Figlio bello e audace, bronzo di Versace, figlio sempre più capace di giocare in borsa, di stuprare in corsa. E tu, moglie dalle larghe maglie, dalle molte voglie, esperta di anticaglie, scatole d'argento ti regalerò. Ottocento, novecento, 1500 scatole d'argento, fine 700 ti regalerò. Quanti pezzi di ricambio, quante meraviglie, quanti antichi